avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si Una fatale, settimana fa facemmo un punto sul fantasticamente, generazionalmente percepito attraverso la televisione negli antichi sceneggiati che faceva la RAI. Non immaginavo di attingere a fonti così profonde di nostalgia, allo stesso tempo di consapevole sensazione di aver vissuto un periodo fantastico in cui la televisione era qualcosa di diverso rispetto a quello che è oggi. Va da sé, non occorre fare analisi molto approfondite per capire qual era il senso profondo di missione di servizio pubblico che aveva nei tempi pionieristici fino, diciamo, all'ambire degli anni Ottanta la RAI. In quel tempo non soltanto c'era questa sorta, perlomeno agli inizi, di visione di fantastica sacrestia d'Italia in cui le persone andavano come andassero in oratorio per apprendere i dettami della via aperta verso l'assoluto e verso la vita eterna, ma anche per avere delle severe e coerenti norme di educazione, di etica e anche di cultura. Il senso della cultura era talmente sentito, talmente profondo, che si andava da la trasmissione per gli analfabeti, che insegnava a scrivere in un'Italia che ancora usciva da un momento molto oscuro in cui il livello di analfabetismo era molto, molto elevato, e un paese che si sta avviando verso la lingua unica, che è quella che raccontava e insegnava la televisione, e qualche sprazzo, non so mai se consapevole o se semplicemente facente parte di un senso di grande tolleranza per ciò che si pensa non dannoso per i principi essenziali, dei grandi sprazzi di avanguardia, di trasgressione, di messaggi subliminali. E questo passava attraverso i grandi sceneggiati, che erano un po' l'antologia semplificata e raccontata per immagini dei grandi capolavori della letteratura. Oggi con Giuseppe Sansonna, che è qui in studio con me, buongiorno Giuseppe. Buongiorno. Ritorniamo su questo argomento. Nasce un popolo! Guarda la bandiera che sventola su Mompecem! Torna indietro! Ti strapperò la vita con le mie mani! Gli hai già tolto molto di più della vita. A un Brook morto si può sostituire un altro Brook. Ma ad una sconfitta come questa non si può sostituire nulla. Torneremo con 10 navi, con migliaia di soldati e distruggeremo Mompecem. No. Combatterò Sandokan ancora, finché avrò sangue nelle vene. Dovunque, ma non a Mompracem. Troppi morti su quell'isola. Brook ha perso Mompracem. Per sempre. Sandokan! Aspettavo trepidante la rima che tutti facevamo a scuola, che finiva in rea, però non mi ricordo marea, qual era. Marea, c'era. E San Billon c'è la diarrea. Era così. Ecco, a parte l'aspetto totalmente ludico della trasfigurazione che se ne faceva e lo sbeffeggiamento quotidiano sui banchi di scuola, fu un grande Sandokan. Sagari apparteneva alla generazione dei nostri padri. Non lo avevamo letto, noi ragazzi degli anni 50, 60 e 70. Non lo leggevamo. Faceva parte di una letteratura che non ci competeva più. Abbiamo sentito magari parlare dagli zii un po' più grandi, abbiamo visto qualche vecchio libro in casa. Improvvisamente riemerge Sagari nell'immaginario dei ragazzi grazie a Kabir Bedi. Era il 1976 e Sergio Solima attinge alla fantasia di quello marino che, stretto alle tempie dai debiti in Corso Casale di Sagari, inventava scimitarre, predoni, malesie, Mompracem immaginarie, pur non essendosi mai mosso appunto da Torino, era nati a Verona. In realtà appunto Kabir Bedi rappresenta una figura quasi bonelliana, la Tex, è l'eroe senza macchia e senza paura che lotta eticamente per l'indipendenza contro il potere monumentale dell'inglese colonialista. Ti ricordi il famoso effetto pecoreccio e casareccio di quegli anni lì, di quando salta e squarcia al vento la tigre, sì, nel salto? Sì, sì, sì, col ralenti, e poi la porta in dono a Marianna, a Carola André, per cercare appunto di ottenerne le grazie, che poi otterrà, ma la povera eroina poi morirà nel corso dello sceneggiato. C'era appunto il potere monumentale che aveva i tratti soliti, quelli metafisici di Adolfo Celi, c'era Yanez che si divideva fra le sue 100 sigarette, che era Philippe Leroy, lo strepitoso amico, fraterno. Forse era il personaggio più interessante. Sì, più brillante, meno anche che toglieva, appunto, sbussava quegli aspetti retorici, però c'era appunto anche lì un'altra percezione del tempo e questi dialoghi estenuati nella foresta. Il Kabir Bedi era un Sandokan rispetto a quello che ci ricordavamo noi, molto edulcorato, trasformato in fotoromanzo, un Sandokan fighetto, leccato, non era quel selvaggio. Sì, però appunto questa forte carica erotica appunto era relegato a quello, sì, anche ma noi a creare ragazzini, per le nostre mamme forse. Certo, per le mamme, però appunto stiamo sempre parlando di sceneggiati che venivano visti da milioni di ragazzini, italiani. Io avevo quasi 20 anni, sto scherzando. ho dei salti generazionali perché avevo fratelli più piccoli. Era il 76, sì, sì, altro che di Conti, appunto, quindi in questo mondo immaginario rielaborato dalla fantasia di Solli, ma si consumava questo racconto che appunto era l'eterno scontro contro il potere, contro il colonialismo, visto in questa chiave eroica, avventurosa, molto alla Tex, ripeto, perché c'era una forte etica di fondo, insomma. 800 24 00 24, è servito Sandokan per aprirvi e schiudervi le fessure più nascoste del vostro immaginario. Adesso dite, raccontate, fatemi capire come si interfacciava la vostra vita quotidiana con il fantastico appuntamento dello sceneggiato della Rai. Dopo tanto odio avevi bisogno d'amore. Sì, hai ragione. Non è possibile che un uomo viva consumandosi nell'odio. Stando con te questa notte l'ho capito. Deve esserci un modo diverso di stare al mondo. E tu me l'insegnerai. La conchiglia suona piano e Sandokan qui si è appena suonato la perla di Labuan. La perla di Labuan che l'ha salvato appunto sulla spiaggia, lo ha accolto e gli ha fatto scoprire che l'amore vince sulla guerra, amore e guerra appunto, che vabbè, invece ne lecca le ferite, ne ripulisce le ferite e lo riporta in vita. Ma non si vede, di questo leccaggio non si vede nulla naturalmente. No, però è tutto all'uso, è una reticenza manzoniana che è avvenuta nella fase notturna. Poi si capisce che anche Sandokan alla fine, anche a differenza di Tex, è meno asessuato, insomma, anche lui una vita. Sì, però vedi, quello che accomuna il Sandokan televisivo a Tex, che sì, cede una volta, poi gli schiatta subito l'oggetto del desiderio, così rimane casto e in qualche maniera assolto dal peccato della carne. Sì, sì, non è estenuato da momenti notturni e quindi può continuare a lottare contro Brooke, contro il suo Adolfo Celi, il suo nemico acerrimo, insomma, che rappresenta questo. Sentiamo l'ascoltatore Peter, primo. Buongiorno Nicoletti. Eccomi. Eccoci qua. Volevo dirle una cosa. Io sono nato nel 65, perciò negli anni 70 leggevo i libri di Salieri. Lei aveva detto che è una lettura che in quegli ma anni... Ma lei è fortunato, ma era l'unico nella sua classe, no, immagino. No, infatti ci ho pensato prima di chiamare. Tanti miei compagni di classe all'epoca, alle elementari, li leggevamo. Ma perché avevate visto, vedevano lo sceneggiato in televisione? E questo non me lo ricordo, se prima guardi, o le poi. Assicuro, io ero già grandino in quegli anni, sentito, capito? Sentito, e sì, quindi sì, mi sì, ricordo, non faceva parte, anche perché erano anni. Dunque, lei, nato nel 65, leggeva Salieri a che ora? A che età, scusi? Io leggevo Salieri all'elementare, quando c'è tua legge. Quindi perché negli anni 70? Sì, sì, sì. Metà anni 70. Io penso che sia fra i libri messi all'indice in quegli anni, perché c'era guerra, c'era il colonialismo, erano libri che difficilmente ma circolavano nelle famiglie illuminate. Perché li ho ancora, me li ricordo perfettamente. Io ho ancora quelli di mio padre, dei miei zii. Erano un po' snobbati dalla cultura ufficiale. Naturalmente, altro, ma stai scherzando. Ricordo, era il trionfo del colonialismo, c'era il consociativismo, certo, tra Yanez e Sandokan, capito? Sì. Io mi ricordo, me li avevo regalati la nonna, perciò questo me lo ricordo bene. Diciamo che c'era un segmento di famiglie italiane che non erano così tenacemente allineate con lo spirito dei tempi, che continuavano a passare ai figli, giustamente, e la letteratura che avevano letto, che è stato alimento delle loro fantasie da ragazzi. Altre famiglie, naturalmente rinnegando le loro eroiche fanciullezze, le gettavano a rogo e davano dei bellissimi libri ai ragazzi, dove si raccontava, non so, l'epopea di Gian Giacomo Feltrinelli e via dicendo, che erano anche quelli atti eroici, però meno legati di senso epico, di fantastico. È d'accordo, Peter? Volevo dire un'altra cosa, non so se avete già detto, ma è uscito un ultimo libro, io ho letto una settimana fa, 15 giorni fa, su Sandokan. L'avete sì, anche perché adesso c'è un centenario, un anniversario, qualcosa legato... Un nuovo libro, tipo un proseguo finale, dove Sandokan e Yanez ormai sono pensionati, scritto da Paco Ignazio Taibo II, e ricollegandomi a quello che diceva lei, si chiama Le tigri antiimperialiste. Beh, naturalmente, io penso ci sarà un insorgere di appassionati salgariani, come c'è stato per il prequel di Amici miei. Certo. Nessuno si può permettere di mettere le mani su quel povero signore che alla fine è morto anche suicida, vittima della sua depressione per il fatto che girava il mondo ma stava sempre chiuso nell'armadio di casa sua. Comunque, il triste naufragio di Kabir Bedi e poi tagliatisi i capelli, passato il tempo, da Mompracem all'Isola dei Famosi, insomma, una sorta di spirale metaforica della... Sì, dice, è quasi peggio la fine del protagonista dello sceneggiato il sequel fatto da Taibo, diciamo. Sì, sì, certo. Grazie Peter, grazie, arrivederci, ci sentiamo tra un istante e andiamo avanti. Vi chiederete perché? Perché allora c'è ancora qualcuno che parla? Perché nella rovina di tutti uno si è salvato? Io, Ismaele, ero quello sbalzato in mare dalla lancia di Acab. Galleggiando a fianco alla scena, ho potuto vedere tutto. Quando il Pequod è scomparso, affondando, il gorgo che si chiudeva mi ha tirato lentamente. Ecco, avevamo fatto un patto di sangue, io e Giuseppe Sansonna, io ti favo per gli sceneggiati di taglio nazionale popolare, l'ho dovuto mettere anche quelli più impegnati, ma c'erano anche quelli. Questo Moby Dick ci fece venire molto latte alle ginocchia, però è giusto parlarne perché fu un grande sforzo. Andava sul canale 2, questa era la splendida quello voce intellettuale, certo, sì, che quello... si vedeva e non si vedeva, era il 1973 e si concedeva a gente come Rino Sudano, di cui abbiamo sentito la splendida voce, che era un grandissimo interprete becchettiano, per la regia di Carlo Quartucci, insieme avevano giocato 1000 finali di partita di Beckett, di fare questo Moby Dick, che nasceva però come nazionale popolare, perché esiste un album di figurine, doveva essere destinato alla TV dei ragazzi, invece cominciò questo... Ma c'era un po' di schizofrenia aziendale in quegli anni, sì. C'era, è il momento della riforma della RAI, qualcuno scalpitava per trasformare l'azienda, già c'erano i segni della necessità di dare... di uscire dal pensiero unico. Il secondo canale ebbe questa vocazione. C'erano dei bei cortocircuiti, c'era l'incontrollabilità del pionierismo, quindi si poteva creare questo set alla Burri pieno di sacchi tagliati, di assiti, di legno, in questo mare evocato dai primi effetti, che era il chroma key che creava questo mare che si apriva, questo oceano che si apriva nelle vele, poi dissertazioni lunghissime su cetacei. Ecco, però bisogna dire che la RAI dava molto spazio alla sperimentazione. Allora, chi sperimentava, chi ancora non era proclamato dal consenso del pubblico, aveva nella RAI un editore che comunque lo esponeva, faceva un passo rischioso. Oggi l'azienda pubblica non fa altro che ripercuotere anni dopo modelli che già sono logorati dall'abuso delle televisioni commerciali. Mi scrive Annalisa su Facebook, si ricorda che Sandokan era il tipico prodotto da fruizione pubblica, si guardava in gruppo, durante il liceo anche i liceali lo guardavano in gruppo, sì, cioè, per riderci sopra naturalmente. Sì, sì. Però piaceva appunto. Giuditta, buongiorno. Buongiorno. Allora, io non volevo parlare di Sandokan, ma delle prime cose che ho visto per televisione, e il terrore che mi assaliva, c'erano questi teleromanzi, si chiamavano, e quello di Rebecca, la prima moglie, con la risata ghiacciante proprio di Grace Poole. È del 1940, è una fanciullezza non remota. È del 40, non dico il film, non sono così decrepita. Questo qui è un... l'hanno fatto. Ah, proprio un remake televisivo. Sì, l'hanno fatto, era una... da Hitchcock. Poi c'era anche Jane Eyre, con le lacrime. Lei non se lo ricorda perché è un po' più giovane di me. Beh, ma sarà difficile, signora, guardi. Se fossi più giovane di lei, lei sarebbe già sulla sedia a rotelle, quindi non è così. Ma quasi, guardi, sono sempre molto carina, però insomma. Comunque questi qua, questi teleromanti che non ne ho più sentito parlare, erano fatti benissimo. C'era Geneire, la prima moglie Rebecca, e poi Cime Tempestose, stupendo, La Pisana. Erano veramente molto molto emozionanti e pieni, cioè credo che mi abbiano dato come una cifra per tutte le emozioni. Sì, perché guardi, allora c'era un rapporto col televisore, l'oggetto televisore, non tanto ciò che ne amava dentro, che ancora faceva parte del mondo del fantasmatico, non sapevamo cosa ci fosse al di là. Avevamo un oggetto da cui si apriva uno spiraglio verso un'altra realtà. Non c'è questo senso di demonizzazione. Oggi il medio ben pensante, colui che vuole dimostrare virtù e vestaliche apparenze, dice: la televisione non ce l'ho nemmeno, non la voglio nemmeno accendere, è l'oggetto del demonio. Allora il televisore invece era una sorta di enciclopedia popolare, affabile, seducente, che ci mostrava cose che ancora non potevano entrare in molte delle nostre case, non dico in tutte, ma in molte nostre case, perché non facevano parte dei bisogni primari. L'Italia stava rinascendo su un'altra serie di urgenze, di occorrenze. Era importante avere il frigorifero, la lavatrice, comprarsi a rate la cucina svedese, e via andando avanti avere quei segni di status e di distinzione sociale che non vedo assolutamente negativi. E c'era meno spazio magari per i libri, anche perché soprattutto tutte le produzioni di cui noi stiamo parlando ormai facevano parte di una sorta di indice dei libri proibiti. Man mano che si andava avanti, si usciva dagli anni 60, si entrava negli anni 70, sarebbero stati poi il preludio agli anni più tristi della nostra storia del dopoguerra, se non ci fosse stata la televisione a tenere vivo un senso con la letteratura, con la tradizione di lettura delle nostre famiglie, non ci sarebbe stato altro, penso. Sì, infatti queste produzioni televisive in bianco e nero erano molto, forse perché giusto ce n'erano poche, ma erano proprio cariche di emozioni, emozionavano molto. Io mi ricordo la mia nonna che le guardava con la mano sugli occhi, per dire. Eh beh, immagino una grande emozione, sì. Più di una nonna rimase secca davanti agli sceneggiati, quindi era anche uno strumento di livellamento familiare. Io ero piccola, ma proprio ero piccola, però vedevo questa scala, faceva veramente terrorizzare. Vabbè, adesso si rilassi, che ormai è passato questo pericolo e può vivere ancora tranquilla. Grazie Giuditta. Laura? Eh sì, io volevo un attimino agganciarmi al discorso di Salgari o Salgari, che non veniva letto. Sono del 53, io nel 76 ero già grandicellina, avevo 23 anni e già lavoravo, però Salgari l'avevo letto. Io sono della gioventù che negli anni 60 leggeva Salgari o Salgari perché mio padre l'aveva letto, perché pur provenendo da una famiglia tutto sommato della borghesia medio-alta, diciamo evoluta dal punto di vista culturale, lo sceneggiato era terrificante. Fumettistico non mi è piaciuto, però ci faceva divertire. Guardi, lei pensa, ma scritto via sms, un ascoltatore ci tiene che colmi la lacuna che ho lasciato aperta all'inizio della trasmissione. La storpiatura della canzoncina di Sandokan, che ho citato in maniera impropria, terminava con la frase: e Marianna con piacere gli pulisce il sedere. Scusi, era una necessaria integrazione. Se lo ricordava anche lei? Sì, sì, assolutamente sì. Vedi, qualcosa è servito, però. Come voleva Salgari, del resto. Ma io una cosa che volevo dire sulla televisione dell'epoca, invece era un pochino diversa, forse essendo io cresciuta con quella televisione, noi passiamo dalla televisione di Manzi gradualmente alla televisione che ci mandava in onda. Io con questa televisione ho imparato ad amare il teatro, ricordiamo Ibsen, ricordiamo il venerdì con la Ma aveva una funzione, giovani. Io guardi non sono mai educativa, un passatista culturale. Un passatista è un nostalgico, oggi forse non avrebbe nemmeno più senso. Oggi è così ingaglioffito il sentire comune, non avrebbe nemmeno più senso una televisione che dica vai a teatro a vedere Ibsen. Non a caso nel servizio pubblico l'unica trasmissione teatro la gestisce Gigi Marzullo, quindi lei capisce che i tempi sono cambiati, non bisogna avere nemmeno nostalgia per i tempi passati, ma coltivare quello che si può coltivare in seno alle proprie amicizie, al proprio clan, ai propri figli, alle persone che si stimano, non pensando che il sapere e la saggezza possa essere un bene popolare. Prego. Però questo tipo di televisione è passata dalla fruizione rituale nazionale popolare di milioni di spettatori ai mille rivoli del digitale, dei canali satellitari, ripetizione, eccetera. Quindi dobbiamo è passata a questo. Dobbiamo dare la linea all'informazione della borsa. Cedo. No, se no mi segano, mi tolgono da me lo stipendio. Prego, informazione alla borsa tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Vieni da noi che mandiamo la fama tra gli uomini. e saprai ogni cosa del passato e del futuro, e conoscerai la gloria degli uomini e delle città che furono e che saranno. Lascia i tuoi compagni, lascia questa navigazione senza meta, fuggi gli anni squallidi della vecchiezza. Scendi! Scendi! Quel suono orribile si spense come un soffio e cessò di lacerarmi la mente. Ritornai in me stesso, stremato, dolorante in tutte le membra. Avrei creduto di essere stato vittima di un sogno orribile se non fossero state là sulle rocce le bianche ossa di coloro che prima di me avevano ascoltato la voce delle sirene. Anche i miei compagni vedevano le ossa e facevano forza. Questo sui fu veramente un appuntamento fantastico, introdotto da Ungaretti, che leggeva dei brani originali dal testo di Omero. Prologo di Ungaretti che penso la rabbia perduto, perché allora veniva girato staccato su pellicola nei vari cambiamenti, sembra ci sono pochissime tracce e noi non sapevamo poco più che chi fosse questo vecchio ciarfugliante. Era perturbante nella però era importante la rottura di livello, entravamo veramente nel tempo dell'epica. L'Odissea televisiva, Giuseppe Sanzon. Era il 1968, Franco Rossi era il regista, aiutato, coadiuvato anche da Mario Bava negli effetti speciali in alcune inquadrature. Beh, Polifemo fu fantastico. Sì, ma poi c'era un genio visivo assoluto. Questa che abbiamo ascoltato è la scena famosa delle sirene, e qui su quest'acqua smeraldina il volto del kosovaro, il volto antico del kosovaro Bekim Femiu, si fa legare dai compagni tutti incerati nelle orecchie e vede sullo sfocato dell'acqua dei segni bianchi che non intuisce cosa siano. Finalmente finisce il canto suadente, pericoloso e fatale delle sirene, e lui alza lo sguardo e vede una distesa di ossa bianche sulle rocce nere. Cioè, dal punto di vista visuale, cinematografico, c'era una sapienza, un'intelligenza notevole. C'era anche, vedi, come sempre, un grande sottinteso edificante. Chi segue il canto delle sirene, come giustamente dice il grande Omero, ma sottolineare le ossa, finisce morto, stecchito, disossato, prosciugato dalla sua stessa concupiscenza. Però devo fare un salto indietro, poi riprendiamo con l'Odissea 800240024. Cosa vi suggerisce quello che vi stiamo facendo ascoltare? Anche sentire il canto delle sirene trattato come un coro di tragedia greca è fantastico. Però c'è un episodio di vita vissuta che non possiamo tralasciare per dare il giusto complemento a ciò che stiamo raccontando, e quello ci racconta Barbara. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Cosa accadde nella sua famiglia? Accadde, io ero piccola e non andavo ancora a scuola, era un sabato mattina e arrivò una telefonata dalla scuola, mio fratello era in prima elementare, e rispose mio padre, che poi disse: tuo figlio è stato espulso da scuola, a mia madre. Andò a prelevarlo. Cos'era successo? Che alla fine di una ricreazione la maestra, i ragazzini giocavano appunto a Sandokan, la maestra cercava di mantenere l'ordine e mio fratello diede l'assalto alla cattedra con un righello in mano urlando: ti grotti a me. E fu cacciato da scuola. E la maestra sì, non poté non invece di essere premiato di premiarlo, sì, infatti, ma fu espulso. Ovviamente quando mio padre andò a prelevarlo la cosa fu molto, diciamo così, insomma, serena, ecco, tra la maestra e mio padre, perché poi mio fratello dice che quando nel rientro a casa mio padre lo mise sul sedile di dietro e da dietro lui vedeva le spalle di mio papà che sobbalzavano perché anche lui non poteva evitare. Ma la maestra era stata gratificata ad essere considerata perla di Labuan? Questo non lo so, ma è possibile, perché comunque, insomma, il tutto si hizo in modo piuttosto divertente. Beh, ecco, non c'era la fucilazione per chi... No, non c'era la fucilazione. Ricordo che però, insomma, ci doveva essere un castigo, ovviamente, per mio fratello. E allora mio padre gli diede due possibilità. Era inverno, aveva nevicato, e per cui c'era la possibilità di andare a giocare con la neve in cortile. Sì. Però quella sera c'era Sandokan alla televisione. Allora gli disse: puoi scegliere, o non vedi Sandokan questa sera o non giochi con la neve. E mio fratello è rimasto in casa tutto il giorno per poter vedere Sandokan. E rinunciò alle due giornate, quindi il sabato e la domenica, di gioco con la neve per poter vedere Sandokan. Ecco, visto che sta seguendo, grazie comunque Barbara, il filone su Sandokan, devo continuare con Massimo. Massimo. Pronto? Eccolo. Sì, io volevo dire che mi associo ai precedenti che hanno detto che Sandokan veniva letto. Sì. Veniva letto negli anni 60. Io sono del 61. Io sto parlando della generazione degli anni 60 che lo leggeva a metà degli anni 70. Non, che No, io sono del 61 e l'ho letto prima dello sceneggiato televisivo. Non solo, anche tutta la saga dei Caraibi, il Corsaro Nero, Corsaro Rosso. Sì, ma non escludo che non si leggesse, guardi. E naturalmente chi lo legge chiama la radio e dice: io lo leggevo. Io dico che nel pensiero corrente di quegli anni, che ho vissuto già in età, diciamo, della ragione avanzata, quindi lo sapevo, era considerato fra gli autori all'indice, veniva considerato come qualcosa di reazionario, legato a un senso di violenza non legata a una ragione di riscatto sociale. Era fra i libri che non andavano letto. Chi leggeva Sandokan era considerato di sospetto di origini fasce e quindi naturalmente veniva visto in maniera sospettosa, perlomeno. Paolo Conte nei suoi deliqui e nelle sue deliqui esotici, Paolo sì. Conte attingeva molto a Salgari, lo ha sempre dichiarato, per esempio. Però la letteratura snob, insomma, gli intellettuali col bavero alzato, un po' esistenzialisti, invece lo snobbavano molto. Sì, questo è quello che si percepiva storicamente. Sì, soprattutto perché era considerato improbabile questa sorta di delirio impiegatizio di un signore insieme mosso da Torino, quindi immaginava che tenta il suicidio alla Mishima. Non era Chatwin che sì, capito? Sì. No, tenta il suicidio alla Mishima e poi muore, insomma, poveraccio, anche sfigato quando si suicida con un rasoio, una maniera dolorosissima. Grazie comunque, Ciro. Ciao, buongiorno. Io volevo dire che Salgari l'avevo letto a 10 anni e poi Sandokan e tutto quanto, e adesso leggo del Tigri di Monpreciano a mio figlio che ne ha 6. Ma quello che mi interessava di più era Omero, perché ho un ricordo bellissimo, ero piccolo, avevo appunto 6 anni, e mi ricordo questa scena di Polifemo incredibile. Adesso mio figlio, sempre di 6 anni, lo vede in DVD, ho scoperto che è stato prodotto da De Laurentiis, insomma una cosa... ed è bellissimo, è lentissimo, una lentezza pazzesca per i tempi di oggi. Eppure mio figlio, che vede tanti cartoni animati terribili giapponesi, quelle cose oscene, ma non dico oscene adesso, io lo so, perché non gliela posso far passare, perché anche questo è un retaggio di letture affrettate e molto di parte degli anni 70-80. Io li seguo perché sono dei maestri dell'animazione giapponese, mi creda. Lo dico, sono dei maestri dell'animazione giapponese, mi creda. Sì, ma a me non piacciono sì, i testi, non... ognuno può avere i suoi gusti, è chiaro. Cioè, Miyazaki è un genio, di questi tempi, tra l'altro, è bene. Sì, sì, ognuno ha i suoi riferimenti estetici che io rispetto, però l'oscenità è un termine assoluto che secondo me non è molto adatto. Comunque la ringrazio, grazie infinite. Andiamo avanti, Giuseppe Sansonna, cosa ci proponi adesso? No, io volevo dire ancora due parole su, per esempio, le figure femminili dell'Odissea. Qui c'era Barbara Bach che faceva Nausicaa. Irene Papas, ragazzi. Irene Papas, che era la Penelope archetipale, ma c'era una forte sensualità. C'era Juliette Mainel, la madre di Alessandro Gassman, che faceva una Circe che a un certo punto cerca di sedurre Ulisse per non farlo andare via e gli bacia l'avambraccio in maniera molto sensuale, molto c'erano questi corpi sudati, c'era anche una violenza, il finale è degno di Kill Bill, la vendetta rituale, anche coreografica, c'erano degli elementi fortissimi che entravano nel tessuto nazionale popolare. La strage dei Proci non può essere diversa dalla scena in cui la sposa con la sua spada ammazza i folli della sua antagonista giapponese. Cani! Credevate che io tornassi da Troia? Volevate rubarmi la moglie e il regno, assassinarmi il figlio senza temere le ire di dei né sdegno di uomini. Per tutti voi è finita, perché vi ucciderò come cani. Telemaco, e non sperate che risparmi qualcuno. Nessuno di voi uscirà vivo da questa casa. Se tu sei veramente Ulisse, tornato a Itaca, allora le cose che dici sono giuste. Ma ascoltami, colui che fu causa di tutto è morto ora per tua mano. Antino solamente macchinava queste nozze con un altro scopo. Voleva avere il dominio su Itaca dopo aver ucciso tuo figlio Telemaco. Antino è morto e noi ti restituiremo quanto abbiamo consumato. Che cosa vuoi restituire, Eurimaco? Ti daremo 20 vacche ciascuno. Bronzo, oro. Non si tratta con Ulisse. Non bastano 20 vacche per risparmiarsi la freccia nella giugulare. Antino ha un volto bellissimo, viene appunto colpito da questa freccia in questa reggia dove lui torna dopo 20 anni e ha veramente una cura del dettaglio. La lentezza ha un suo rigore, cioè era un'altra percezione del tempo, ma era inserita in un rigore preciso, non è, aveva una sua funzione, la parola veniva scandita, le immagini, ma in qualche maniera dovevano ricostruire il senso della metrica omerica, che non può essere raccontato con i cambi di inquadratura di un telefilm americano. E lo spirito dell'epica omerica era perfettamente rispettato e accedeva alle grandi masse. 800 24 00 24, tra un istante soltanto, dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Mi restano forse ancora 20 anni, 30 anni da campare, e poi verrà il mio turno. Come è venuto per gli altri, ho tutto. Che sventura non esserci più. Sì, voglio andarmene via domani e informarmi per tutto il mondo dei più adamantini procedimenti di imbalsamazione. Ah, tutto è bene, quello che non finisce mai. Come m'annoio superiormente. E allora che aspetto qui la morte? Come io morire, ma vi andiamo. Io morire, ma non andiamo. Sì, d'accordo, sì, si muore, ma non essere più, non esserci più. Parole, parole, parole, ma che cosa mi ci vuole? Se tutto mi fa freddo, basta! Quando fame ho fame, quando sete ho sete, quando voglia ho voglia, e allora se l'idea della morte mi è così lontana, vuol dire che la vita mi è in balia, vuol dire che la vita mi reclama, e allora vita mia e noi due. 800 24 00 24, avete sentito? La vertigine era così undivaga nelle menti di chi programmava la televisione pubblica in quegli anni di cui stiamo parlando, che anche l'Amleto di Carmelo Bene diventava un prodotto popolare, nazional popolare, se lo vogliamo leggere in una accezione oggi considerata negativa. Passava, comunque passava, la gente se ne imbeveva, ne veniva contaminata. Io ricordo, a proposito di Carmelo Bene, piccola notazione forse inedita, negli archivi della radio degli anni 90 trovai delle vecchie bobine in cui Carmelo Bene aveva iniziato a fare il libro cuore, non fu mai terminato, penso sia perduto, non so se ancora esista, era fantastico. Beh, sì, parlava della piccola vedetta lombarda e il ragazzo calabrese. Invece qui siamo nel 1974, lui fa il suo Amleto di Meno, un Shakespeare corretto dalla Forge, con grandi innovazioni tecniche, con questi personaggi inghiottiti da dei neri. Lui aveva rinforzato e inchiostrato i neri rispetto al grigio classico di quegli sceneggiati, e un Amleto capocomico che ha le prese con un Polonio, che è un pedante freudiano, psicanalista freudiano, che lo vuole ricondurre a Edipo. C'è una Laura Morante, Ofelia, suora seminuda e schiaffeggiata. Ci sono una serie di grandi innovazioni. C'è l'uso del chroma key, il re finale sparisce nel chroma key, il suo volto si dissolve. Ecco, quando scoprì la televisione questa fantastica maniera di fare le magie, le scomparse, le ricomparse, i fondali finti che apparivano dietro i personaggi, ci fu un abuso di chroma key, perché alla fine era messo dappertutto, agli sceneggiati per i ragazzi, alla televisione dei ragazzi, fino ai grandi sceneggiati. Qui invece ha un senso fantasmatico, riesce a creare queste alsinore piene appunto di spettri, anche perché erano effetti molto, molto approssimativi. Ogni tanto c'era proprio la scomparsa, la trasparenza del personaggio. Sì, lui riesce a usarlo con un certo rigore e fa questo Amleto strepitoso che recita la signorina Felicita di Gozzano. In realtà è un capocomico e usa il protesto della morte del padre come un argomento di cui scrivere da drammaturgo. Fiorella, buongiorno. Fiorella. Buongiorno a tutti. Io ho chiamato quando stavate parlando di Sandokan e devo dire che sono tornata indietro agli anni dell'adolescenza, in cui purtroppo ero in collegio e non ci facevano vedere la televisione. Una tenera educanda, quindi non poteva vedere Sandokan e la perla d'aria. No, si poteva, però l'Odissea l'abbiamo vista. Si poteva vedere la televisione solo dopo il permesso della madre superiora. Si cominciava a chiedere dalla settimana precedente. Fra le rose, fra le viole, anche un giglio ci sta bene. Noi vogliamo tanto bene alla madre superiore. Comunque mi ha portato anche un pochino di commozione, perché devo dire, io sentivo parlare di questo Kabir Bedi dalle compagne di scuola. Credo. Sì, per me era una cosa irraggiungibile. Ma era inconfessabile, se sapevano le suore, impugnavano il candelabro e facevano sentire loro. No, ma si vedeva rischiatuto qualche volta il telegiornale, cioè proprio queste cose non si guardavano. L'ho poi visto anni dopo e devo dire che tutto sommato non mi ero perso un granché, ecco. Però in quegli anni per me era una cosa... In quegli anni le avrebbe dato conforto. Sì, sì, sì, avrei fatto carte false per vedere quello che le compagne di scuola vedevano. E ne parlavano le compagne come qualcosa di irraggiungibile e anche di, da dover nascondere, doversene vergognare, perché faccia parte degli usi illeciti della diabolica televisione. Certamente, certamente. Devo dire che c'erano i sogni, no, delle ragazzine così con questo uomo bellissimo, affascinante, cosa, io lo vedevo magari poi sui giornali, ma ho poi visto una replica, le dico, anni dopo, e non era poi tutto. Beh, quello c'aveva un po' l'aria da frate, visto il clima poteva darvi questa impressione di scambiarlo con il padre guardiano del vostro collegio. Grazie mille Fiorella, passiamo a Giovanni. Giovanni. Buongiorno ai suoi ospiti e a tutti gli ascoltatori. Mi consenta di farle i complimenti per sì, il andiamo al dunque. Radio, per Miro. Sì. Solamente perché ho avuto il piacere di conoscerla personalmente. A me? Quando? Sì, esatto. Qualche anno fa, poi, per motivi di mio lavoro. Di? Comunque, per motivi di? Lavoro. Di lavoro. Mio lavoro. Sì, esatto. Io gestivo una concessionaria di un marchio di auto, quindi... Ah. Lei era un nostro... Ah, devo cambiare la macchina, poi mi lascio il telefono che la ricerco. Va bene, ok. No, io mi riferisco a Sandokan. Quando uscì Sandokan facevo le scuole medie. E su contemporanea con l'uscita dello sceneggiato uscirono dei giornali, diciamo, questi giornaletti per adolescenti con i primi sedi nudi. E noi facevamo girare questi giornaletti con appunto la protagonista che aveva il seno nudo. La perla di Labuan a tette sì. nude. Ah sì, dopo la notte d'amore. Girò di... Ah sì, ma si vede un nano fotogramma. Alla Clara Caramai. Come sì, non si vede nulla. Più che altro poi erano queste foto da giornali, insomma, questi giornali un po'... Lando. Adesso li chiamano di gossip. E noi chiaramente sognavamo poi questa ragazza molto bella. Però vedo, guardi Giovanni, lei mi dà uno spunto che non avevo valutato. Che mi rendo conto che la versione televisiva di Salgari, che in realtà era quanto di più lontano dall'erotismo potesse esistere, lascia tracce profonde dalla aspirante suora che ha chiamato prima al concessionario di auto che ha parlato adesso, che ha fortemente, carnalmente intriso la loro memoria, molto più di quanto l'abbia fatto magari Omero, di quanto l'abbia fatto Shakespeare, di quanto l'abbia fatto, anche se non l'avrà mai fatto nella sua vita, l'onesto Manzoni. Ma c'era l'erotismo esotico, appunto da scicco, come infatti mi ricordava la telefonata di prima, lo scicco bianco, questa attesa dell'eroe esotico da andare a trovare molto, molto appunto vicino. Facciamo un salto vertiginoso, visto che ormai l'ho evocato e visto che secondo me è il più noto degli sceneggiati, non possiamo fare a meno. Avrei parlato volentieri anche di Jekyll e Albertazzi, però andiamo, così diamo in pasto agli ascoltatori il boccone più saporito e anche quello che attenua tutte le carni indebitamente sollecitate dalle nostre telefonate. Che sciocca curiosità da donnicciola mi è venuta di vederla. Ha ragione per il bestione del nibbio. Uno non è più uomo. È vero, è vero. Uno non è più uomo. Ma cos'è stato? Che diavolo mi è venuto addosso? Non lo sapevo forse prima d'ora che le donne strillano. Non ho mai sentito belar donne. Pure. Io sono ancora a te. Io posso dirle. Certo, scrive Fabrizio Intonti, Carola Andrea era una grande gnocca, quindi è comprensibile. Paola Pitagora invece era la faccia, la Madonnina infilzata, che era perfetta per fare, perfetta, diciamo, per essere ghermita da Salvo Randone con questa faccia da uccello notturno. Qui c'è un primo piano strepitoso che Sandro Bolchi, il regista dei Promessi Sposi, che andò in onda nel 67, gli fa, è proprio un... veramente una sorta di gufo immenso, con questa voce rantolante. Quindi c'era il solito cortocircuito, questi provenivano dagli assiti dei palcoscenici e irrompevano nella televisione. Però erano giusti per raccontare Manzoni. Perfetti. Giusti, che è un grande polpettone istituzional edificante. Erano era giusti anche, e anche devianti un po', perché comunque era un incubo vivente. Certo, quando Randone... Renzo Tramaglino cominciò a saltare la staccionata abbiamo avuto qualche dubbio, però si dissolse. Vabbè, comunque Renzo è un cretino in Manzoni e giustamente continua a farlo nella vita, nella facendo vita, i caroselli. Invece Paola Pitagora ha mantenuto questo suo aspetto di... Era molto bella Paola Pitagora. Beh, lo è tuttora. Sì, molto bella. E anche Nacome Andromeda Maddalena, appunto, molto discinta, insomma, la studiosa mandata. Io volevo chiudere in alto, tu stai chiudendo nuovamente in basso. Sulla bellezza, no, bellezza non contaminare classica. La Pitagora con il tuo ricordo umidiccio di adolescente inquieto. I tuoi spessi occhiali denunciano l'uso improprio che hai fatto degli sceneggiati. Grazie Sansonna, grazie Fabrizio Intonti, grazie Alessandro Chiappini, il nostro fornitore pusher anche di materiali occulti regati ai vecchi sceneggiati. Ci sentiamo domani. Ah, domani sono a Verona, al Vinitaly. Se sarò sobrio e lucido, farò la trasmissione. Alors tous deux, on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.